Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Con una mano la leva dalla testa di Albiol, che poi la rimette subito in mezzo, tocca al volo Lorenzo Insigne e fa 3-0 per il Napoli dopo 51 minuti. Il Napoli vola, il Napoli vola. Manca del lavoro, manca dell'attenzione, manca della determinazione e manca anche della personalità. Taglia Guain sul primo palo, il pallone va invece al centro. Mario Mandžukić, 3-0. Fonda, va col sinistro nel mucchio, alla dentro, non allontana il crotone, la padula! Però voglio dire che non ho fatto ancora niente, questo è l'inizio di un percorso importante. Colgo l'occasione per dedicare questa vittoria e il gol alla squadra brasiliana. Forza Chape, rimarrete nella nostra memoria per sempre. Mengolan, è in vantaggio su Milinkovic, Mengolan dalla distanza, prova il tiro, rete, il raddoppio della Roma, Mengolan sorprende Marchetti e manda la Roma sul 2-0. Il derby è vero che ti dà poi quella carica emotiva, che ti spinge più in là di quello che ti dà una qualsiasi vittoria, però noi abbiamo altre mire, noi la vogliamo guardare anche più profonda la cosa, noi dobbiamo dedicarci alla partita del Milan ora, lasciare stare questa qui. Beh, come aveva promesso ed è stato ovviamente di parola Giuseppe Cruciani. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, sei pronto? Sì, prontissimo. Sei prontissimo. Ma io sono abituato a perdere, oh ragazzi. No, ma a parte il fatto che non hai visto la partita, poi sei pronto anche a battagliare con Liguori. C'è Paolo? Adesso arriva, tra pochissimo. Ottimo. Intanto c'è Pardo. Eccolo qui. Eccoci, sei pronto per stasera? Grande ritorno del signor Cruciani. Carichissimo, carichissimo. Grandi sorprese, stasera. Tutti tiki taka, tutti su tiki taka. 3:45. Bravo, grandi sorprese ci saranno in onda, caro Pier, lo sai, grandi sorprese. Lo so. Chi c'è? So. Renzi, D'Alema. No, poi vedrete tutto. Vabbè, niente, roba normale, ragazzi, roba normale. Roba normale, niente cose, niente sceneggiate, niente parole forti, discussioni normali sul derby. Vedete che sono carico anche per il fatto che abbiamo perso, cioè sono talmente rassegnato ormai. Devi sapere che i tifosi della Lazio sono sempre rassegnati alla sconfitta. Dunque, in questo caso non c'erano i presupposti. No, ma non è vero. Questa cosa che voi avete detto, che la Lazio era favorita, era ridicola. Pure tu, Pier, non capisco come ve ne uscite con queste cose. Beh, Pier, un po' per scaricare. No, ma io guarda, posso dirti perché? Perché io penso che. Beh, la Lazio, ragazzi, arriva. Io ieri ho parlato sia con Zampa che con, sì, che con De Angelis della partita. Era un pensiero condiviso. La Lazio arrivava con meno acciacchi e con una condizione molto buona che è il presupposto come sai per perdere di solito, ma non è vero, però la cosa di dire che la sfavorita vince il derby è un po', secondo me, un luogo comune. No, ma certo, quando la sfavorita vince il derby fa più effetto e quindi dici guarda, proprio il derby, cioè il derby è vero che rispetto a una partita normale riesce a sovvertire di più l'ordine costituito, statisticamente sicuramente più volte. Ieri era un derby equilibrato, la sensazione era che la Lazio avesse una condizione migliore, giocava realmente in casa, l'ha detto anche De Rossi a fine partita, cioè ieri era un derby dove c'erano 32.000 tifosi della Lazio e 8.000 tifosi della Roma, sì, quindi ma... era quasi una partita normale in una logica casa trasferta. Guarda, tutto è stato nei pronostici che si sentivano, diciamo, che abbiamo ascoltato, eccetera, tutto è stato condizionato dall'infortunio di Salah. Cioè, nella settimana del derby si è fatto male Salah. La Lazio veniva da una serie di vittorie, da una serie di risultati positivi, non vince il derby da un po' di anni e dunque tutti hanno pensato, beh, questa è la volta buona. Però tutti questi ragionamenti non erano poggiati su un ragionamento tecnico, perché se uno si deve basare su una questione tecnica, ragazzi, comunque la Lazio è sempre sfavorita, cioè, rispetto alla Roma. Perché fino adesso è stata una delle squadre migliori del campionato. Sembrava fosse possibile vincere, soprattutto dopo l'infortunio di Salah, che oggettivamente per la Roma è un uomo in più, tant'è che la Roma non ha fatto una grandissima partita dal punto di vista della velocità, come adesso, al solito, sì. Dal punto di vista della velocità ha fatto una partita però da grande squadra. Ecco, questo, guarda, io ti dovessi dire la differenza ieri, secondo me, è venuta fuori dal punto di vista proprio della personalità, assolutamente, dell'attitudine. La Lazio la Lazio, se non si disunisce, il caso secondo me di Wallace è il caso di scuola, no? Assolutamente, giocatore, se non si magari pareggia, magari pareggia. No, ti dico, giocatore che sta facendo benissimo, che adesso chiaramente vivrà una settimana complicata, che dovrà essere forte dentro di sé, così giovane, a ritrovarsi, perché il derby tipo, a Roma ti può logorare, sì, a Roma e anche in altre parti, ma a Roma ragazzi, però tutta questa esaltazione pure di questo signore che si chiama Wallace, che a me ricorda molto un giocatore di pallacanestro più che un giocatore di pallone, non so come, dal nome, anche un po' dall'andatura un po' di noccolata, francamente io non l'ho mai capita. Fino cioè, a un giocatore, punto è andato bene, sì, ho capito, 8 partite di campionato, 9, quelle che sono 10, non ne ha giocate di più, credo, forse anche meno, cioè non è che ti possono portare a dire, cazzo, questo qua hai fatto, finalmente hai puntellato la difesa, cioè De Vrij che è appena rientrato, e infatti alla prima occasione vera eccetera si è messo a fare il ballerino al limite dell'area, che è una cosa di grande arroganza, probabilmente gli elogi che gli hanno fatto, le cose che ha sentito e che ha visto in questa settimana l'hanno pure condizionato, perché uno che si mette a fare un dribbling al limite dell'area inutile invece di spazzare la palla, insomma, dai, qualche limite tecnico ce l'ha pure lui, eh. Sì, adesso ci fermiamo un attimo per il traffico, poi arriva anche il signor Liguori. Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. Caduti nella provocazione di Rudiger, c'è stato quel battibecco con Cataldi da cui poi è scaturito il parapiglia, anche a fine partita il giocatore della Roma stava venendo verso la vostra panchina. Due anni fa era lì Stoccarda, vendeva pure calzini o cinture, adesso fa fenomeno, quindi sicuramente un ragazzo, ma non è lui, non è colpa sua, è colpa di quelli che stanno intorno a lui, che non fanno crescere un ragazzo maleducato, diciamo così. Allora io cito Crosetti, su Repubblica. Poi lasciamo stare. Beh, però poi da parte di un bosniaco sono pure dichiarazioni, insomma, che non andrebbero fatte con una certa leggerezza, no? Perché? Beh, perché sono dichiarazioni un po' razziste, no? Razziste? No, dire no. Che un ragazzo nero vendeva calzini non è una dichiarazione va razzista. Bene. Anche noi bianchi e tutti vendiamo calzini, non vuoi dire questo niente. E no, perché Rudiger vendeva calzini a Stoccarda? Va bene, non lo so. Ti è scappata? Lasciamo stare. Allora, dicevo, cito Crosetti su Repubblica, quello che tira l'acqua in faccia, quell'altro che invece tira la maglietta, il mischione gigante, quello dei calzini e delle cinture, quelli che dopo chiedono scusa come se bastassero tre righe a mettere in moto i tre neuroni residui. Io saluto il direttore Paolo Liguori e voglio sentire come si possa difendere questa cosa che ha detto Lulic. Ma insomma, comunque, il derby di Roma è una storia a parte. Ora Lulic ha detto dei calzini, delle cinture, si vede che frequentava pure lui quegli ambienti, ma chi se ne frega, cioè, poi io non credo che si debba fare per queste cose. Guarda, secondo me non è neanche un problema di educazione né per Rudiger né per Lulic, c'è il derby e se ne dicono tante, se ne sono dette tante a Roma, è così. Io un po' sono abituato, un po' tra le tante cose che succedono non è la più grave quella di dirsi dei calzini o di tirarsi l'acqua, insomma, sono cose quasi infantili, quasi puerili, finiscono, succedono in campo e finiscono in campo, dai, adesso non la facciamo lunga. Beh, dire la verità, il direttore è finito negli spogliatoi, no, Giuseppe Cruciani, guarda, a caldo, allora, con la maglietta sudata addosso. Giuseppe Cruciani vendeva all'ingrosso i calzini che Rudiger vendeva al dettaglio in Germania e li forniva lui, dai, lo sappiamo. Io non volevo dirlo, ma visto che mi avete chiamato in causa lo devo dire. Lo stock di calzini lo comprava Cruciani, esatto, bravo. E Rudiger faceva il venditore al dettaglio. Gli accendini? Allora, gli accendini li pigliava Parenzo specializzato sugli accendini. Allora ragazzi, però la questione è molto semplice, ha ragione, un po' ha ragione Paolo, perché tutti adesso oggi si stracciano le vesti con razzismo, qualcuno pensa addirittura di dare 10 giornate a Lulic, 10 giornate. Ragazzi, voleva dire una cosa molto semplice Lulic, purtroppo c'è non razzismo, l'arroganza dell'arricchito. Cioè l'arroganza di quello che viene dalla Bosnia, da dove cazzo viene Lulic, si è arricchito e dunque pensa che essere un poveraccio, perché quello è quando lui dice vendeva calzini, che è una cosa nobile, perché vendere calzini e cinture è una cosa degnissima. C'è gente che campa vendendo calzini e cinture, va benissimo. Detto questo, lui tratta quelli che vendono cinture e calzini come dei pezzenti. Questo è il punto. Cioè, non c'è razzismo, c'è il razzismo nei confronti dei poveri, c'è l'antipoverismo, non so che cosa. Questa è l'uscita di lui, c'ha questo significato. Fino a qualche anno fa, quello là era un poveraccio, cioè era un disgraziato, era uno senza, uno scappato di casa. Questa è la traduzione. Beh, ha detto Tavecchio, no? Sì, Tavecchio ha detto la stessa cosa. No, Tavecchio ha detto molto peggio. Tavecchio ha detto molto peggio. Ha detto la stessa cosa. No, Tavecchio ha detto... Bingo bongo, non so, veniva fino a poco. Allora, io dico una cosa: se danno qualche giornale di squalifica a Lulic, dovrebbero cacciare Tavecchio domani mattina. Cioè, Tavecchio ha detto una cosa, ma 100 volte peggio di quello che ha detto Lulic, perché lì c'era la cosa razzista della scimmia che mangia la banana. In questo caso e che viene cosa. A giocare in Italia. Non ha detto affatto la stessa cosa. Quindi gli voleva dire: questo qua sei un poveraccio che fino a qualche sei anno. Un poveraccio di negro. Ma negro, l'obiettivo. Ma dai, su. Ma ragazzi, lo capiamo tutti. E poi è stata una dichiarazione. Ti ripeto, non in campo con la maglietta sudata addosso, ma nel dopo partita in giacca. Ragazzi, calata, è una puttanata, è una cosa detta male, una cosa per cui uno deve prendere un'ammenda in denaro per aver detto questa stronzata, oppure lo quereli se si sente colpito nella sua, come dire, nella sua immagine, lo quereli Ludiger, vadano in tribunale, ma non ci scassino le balle con le squalifico, con queste cose qua per razzismo che non c'entra assolutamente nulla, zero. Allora, c'è un tema fondamentale che è un tema di linguaggio. Oggi il linguaggio è, Crociani fa una traduzione nella quale il tema del politically correct, di ciò che lo è e di ciò che non è, torna continuamente in ballo. Questo è un tema fondamentale. Allora, o Lulic è razzista, cioè Lulic veramente ha detto questa frase perché voleva offendere, perché voleva dare del nero. E chi lo decide che è razzista? Esatto, no, esatto. O è questo, oppure è, come io credo, una stonata, vergognosa, irricevibile, inaccettabile dichiarazione dovuta al fatto che era incazzato come una iena. Ecco, allora questo è quello che penso io. Ma è questo, su. Ma scusa. Ma è chiaro che è questo, però. Ma scusa, ma io ti dico, Pierluigi. Non dobbiamo aspettare 24 ore. Cioè, allora, Pierluigi, che adesso vi do una notizia: fra un'ora, due ore arriverà un comunicato del Lazio. Con le scuse di Lulic, ma d'accordo, l'ha fatto ieri Diagonale. Sì, l'ha già fatto. Diagonale non è Lulic, a nome del giocatore. Scusate, l'hanno adesso fatto. Dico una cosa: il contesto fa la differenza. Nel contesto derby, la frase di Lulic, perdonatemi, lui è laziale, io sono romanista, è acqua fresca. Se lo squalificano, sarei pronto anche a protestare perché è un eccesso. Però. Per esempio nel contesto Zanzara, ora Crociani fa del bullismo delle volte quando trova un poveraccio e lo perseguita, però è il contesto in cui lavora, tutti sanno che è uno scherzo, tutti sanno, magari si diverte pure l'interessato a telefonare e a farsi fare il bullismo da Crociani e Parenzo. Ma quindi il contesto è un po' di bullismo. Ma al di là di quello che faccio io, per esempio, ieri sera, dopo il referendum, c'è stato un dibattito acceso su Rai 3, forse Paolo l'ha visto, in cui c'era un signore che si chiama Rondolino, che ha dato del pezzente, del disgraziato, che è esattamente quello che ha fatto Lulic, a un senatore della Repubblica che si chiama Brunetta. Per motivi politici che sappiamo, di cui non parliamo qui, esattamente nessuno pensa di squalificare Rondolino, cioè non c'è un ente superiore. Secondo me li sbaglia. Lì c'è un tema, però ribadisco, un tema di linguaggio. Arrigo Sacchi è stato tirato in ballo per giorni perché aveva detto una frase sicuramente stonata dal punto di vista diciamo della forma, ma non voglio dire ineccepibile, comunque insomma accettabile dal punto di vista della sostanza. Cos'è che aveva detto sui neri? Noi sui aveva detto una cosa che non si può dire, ma essenzialmente che... il suo punto di vista c'erano è che... troppi neri nei settori giovanili. Esatto, e soprattutto una cosa che ometteva il fatto che esistono, grazie a Dio, in una società multietnica come la nostra, persone di colore che sono italiane esattamente come me, che sono nata a Corso Trieste a Roma, forse anche di più. Quindi c'era questo elemento che non è importante. Ma lui... Però Sacchi faceva una valutazione di carattere tecnico sulla difesa dei italiani. Non è che lui ha detto i neri che vendono le cinture e le cose, le cinture e i calzini, dai, perché le cinture e i calzini non è che le vendono solo i neri ai mercatini, li vendono pure gli italiani, dai, cioè, gli italiani, però, bianchi, tutti. Cioè, non... Secondo me oggi, rispetto a 10 anni fa o a 20 anni fa, grazie a Dio, sottolineo 1000 volte grazie a Dio, ci deve essere un'attenzione alla linguaggio molto più forte. Ma va bene, ma lo multassero, vale, ma lo multassero, va benissimo, ma la squalifica... Vale per il signor Lulic e vale anche per esempio per quel tifoso della Lazio che l'altro giorno a Formello ha fatto una ringa di due minuti, quell'ultra ha fatto una ringa di due minuti dove poi ha detto una frase che oggi... La pulizia etnica, quella è la vergogna, no, che quello fa... Ma dovrebbe valere pure per noi, dai, allora... No, ma io quello che dico è che obiettivo abbiamo? Allora, l'obiettivo per me non è che Lulic prenda 10 giornate di squalifica. L'obiettivo è che la prossima volta Lulic e tutti gli altri ci pensino. L'obiettivo, secondo me, non è incarcerare. E allora puniteli tifoso con i soldi. I soldi è l'unica cosa che cosa che li fa arrabbiare non è che Rudiger sia povero, ma che sia nazionale tedesco e fortissimo. Perché questa è la verità, che tu vedi sto ragazzone e poi ti rendi conto che alla fine ha più prospettive, no, di carriera. Ma lo sai da di dove, lui, no? Ma sai da dove è nata la cosa, no? Dal fatto che Rudiger qualche giorno prima in un'intervista ha detto io la Lazio non so manco che cos'è, l'allenatore, beh, ma mica è colpa sua, l'allenatore non lo vuole che sappia uno che ma lo sa in Germania nella nazionale tedesca della Lazio. Ma che cazzo dici, dai, ma questo è evidente che lui sa chi è, anche perché è a Roma, da mica da Roma da ieri, è evidente, ma che è una provocazione quella. Roma, ma no, dai, ma non è un insulto, è una provocazione. Roma, però, deve, ma non dire, dovrebbe essere nato Paolo, non è quello, lui è una è una dichiarazione, scusami, adesso al di là delle battute. È una dichiarazione che ci sta, è una dichiarazione provocatoria perché sa benissimo chi è la Lazio, sa benissimo chi è Simone Inzaghi, una dichiarazione provocatoria che non è violenta ed è allo stesso livello di quella che, della cosa che ha detto Lulic. No, ma lo stesso, dai, non è allo stesso livello, dai Giuseppe. Sono tutte e due molto blande, quella di Rudiger è allo stesso livello, dai, non è allo stesso livello. Ma, una cosa se vuoi è uno ma perché spottò innesca un meccanismo di capito? No, di... Vabbè, un meccanismo di spottò fra Roma e Lazio. È che dico Roma è storia, Lazio è geografia. Da quando ero piccolino, quei pantaloni corti. Ma lui che ne sa Rudiger? Ma non lo sa. Innesco un meccanismo. Ma vi rendete conto che la frase innesca un meccanismo è già più pericolosa dei calzini? No, cioè, Moretti direbbe, ma come parliamo? Innesca... frase innesca un meccanismo, già se c'è in testa un meccanismo, ma sei io già non malato. Ma non sto dicendo che innesca un meccanismo da parte mia, sto dicendo semplicemente che come la guerra etnica, come quel tipo etnica. Ho capito, ma quello là non deve salire a ringare i tifosi. Ma tu l'hai mai visto prima di un derby Manchester United Manchester City, un tifoso del Manchester United che dice che è lì davanti ai tifosi, davanti ai giocatori e dice: ragazzi, questa è una guerra etnica, ma ti sputano in faccia, ti prendono e ti portano al manicomio, dai. Non ci sono manco le barriere negli stati inglesi, immaginate. Ma no, ma appunto... No, ma al di là delle bandiere sono cose che non devono esistere. No, le esistere barriere proprio. No, ma al di là delle barriere sono cose che non devono esistere. Ragazzi, il tema oggi è solo questo. È razzismo? No, secondo me no. No, va squalificato. Secondo me non è razzismo, ma deve essere spiegato. E io, secondo me contano i comportamenti delle persone. Uno può anche dire una frase sbagliata, a patto che faccia ammenda. Questo è una specie di è un insulto, è come se gli avessi detto fino a poco tempo fa eri un poveraccio a Stoccarda che non contava nulla e adesso sei diventato arrogante. Vero o no che sia, nel calcio non ha importanza. Roma è divertente, il derby di Roma fa ridere, fico. Scusate, ma dal punto di vista dei comportamenti, dal punto di vista dei comportamenti in campo sarà più grave lo sputo con l'acqua tirata a Cataldi di Strootman gliela sputata addosso. Ma l'acqua è uno scherzo pure quello, non è uno scherzo perché se alla fine della partita. No, ho capito, Paolo, tu segni, prendi l'acqua, la prima cosa che pensi è tirarla addosso all'avversario. Voi non eravate allo stadio, attenzione, lui segna ed esulta, dalla panchina lo comincia a insultare, passando dalla schizza di Aracco, allora quell'altro gli mette la mano addosso, però non l'ha ferito, quello si è buttato per terra. Infatti l'espulsione è assurda, l'espulsione è assurda. No, vabbè, l'espulsione ci sta perché se stai in panchina non puoi entrare in campo. Allora caccia pure quell'altro però. No, quell'altro era in campo. No, ma lo devi cacciare pure lui. Devi cacciare che gli ha sputato l'acqua addosso. Quello non l'ha visto l'arbitro, però. Perché evidente, se no l'avrebbe cacciato. Ma sì, se no l'avrebbe cacciato tutti, poi gli avremmo fatto un pistolotto. Fatto sta che il derby fa ridere, è divertente, perlomeno due ore che si è visto qualche cosa, magari... No, certe volte non c'è nulla, infatti è diventato un mortorio. Ma infatti ragazzi, ha ragione Paolo, tutte queste cose qui di moralisti, di rompipalle che dicono come ci si deve comportare, ma fateci vedere delle cose, ma fateci divertire, su. almeno una volta al derby, se no a casa. No, ma anche per il pubblico ieri. Anche perché Lulic è diventato più laziale dei laziali veri e ha reagito. Ha segnato una volta al derby. Esatto, ha segnato una volta al derby, fermo. Non capitale, non banale. Ha segnato una volta al derby, marginale, ecco. Sì, no, ha segnato una volta al derby, che quasi tutti hanno segnato una volta al derby. Ti potrei citare Paolo, ma non è un gol banale quello, dai. Il derby è un gol banale, storico, questo lo sappiamo tutti. È un gol che storia. Ma detto questo, io apprezzo molto che da parte di due super tifosi, ma anche due personaggi che non hanno paura a sfiorare il politicamente, a sfidare il politicamente corretto, ci sia questo tipo di atteggiamento, che secondo me è quello giusto. Però ripeto, a patto che sia educativo. Cioè, secondo me il punto fondamentale è che Lulic deve capire che ha detto una stronzata, che ha detto una frase che poteva essere equivocabile, e speriamo che sia stata equivocabile ed equivocata, e cioè che lui non volesse fare quel riferimento. Questo deve andare nel cervello di Lulic, non credo che il giudice sportivo possa andare nel cervello di Lulic. C'è la presunzione di innocenza, a patto però che poi seguano dei fatti. Vabbè, ma quelle sono cose formali che ci saranno, no, ma chiari ed evidenti per andare avanti. E che fanno? Si devono dare la mano? Si devono dare la mano tutte e due? Si diano la mano? Probabilmente ci devono anche dare la mano. Organizza Tiki-Taka stasera, la stretta di mano tra Lulic e cose e Rudiger. Vabbè, ragazzi, facciamo bingo. Ci fermiamo. Ringrazio Paolo Liguori. Tu che fai? 10 minuti resto. 10 minuti resti, ci fermiamo per la borsa. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Dunque, tra quelli che scrivono c'è chi è d'accordo con Cruciani per una volta. È solo un insulto da pulire come in tanti altri, il razzismo non c'entra un cazzo. C'è invece chi domanda: se Rudiger fosse bianco delle parole di Lulic, se ne parlerebbe ancora oggi? Davide Benevento, 803. Ma Rudiger non è bianco? Appunto. Appunto. Io sono d'accordo, raccolgo la suggestione del nostro ascoltatore, però Rudiger non è bianco, tutto qua. Davide. E tra l'altro Lulic viene da un pezzo di mondo che credo abbia anche una sensibilità da questo punto di vista, perché purtroppo sappiamo che degli insulti e delle discriminazioni di tipo territoriale sono avvenute anche nei confronti di persone che vengono dal pezzo di mondo dal quale viene Lulic, per cui quasi da tutte le parti del mondo. Anche se bisogna dire che in quel mondo lì, cioè nel mondo bosniaco, diciamo, nel mondo dell'ex Jugoslavia, c'è un tasso di tolleranza nei confronti delle minoranze che è abbastanza basso, ecco. abbastanza basso. Ha usato un pallido eufemismo, Cruciani. Abbastanza basso, cioè, voglio dire, non mi sorprende che frasi, diciamo, razziste, e ripeto, secondo me non è questo il caso, ma comunque frasi razziste vengono pronunciate, soprattutto anche pesantemente razziste, da giocatori dell'ex Europa orientale. Davide? Pronto? Sì, buongiorno. Vorrei sapere se il giudice sportivo può intervenire per qualificare Trotman per la simulazione e per il gesto che ha fatto, quindi per una doppia, a mio avviso, infrazione. È un atto molto vile e diseducativo, anche trattandosi di uno sport, nei confronti di tutti i bambini che guardano. Ne sa di più Cesari, Pier, di questa cosa qui, sì. Credo che siccome è stato ammonito non credo che possa essere stato visto e valutato dall'arbitro. Forse non ha visto l'acqua, cioè se è stato ammonito non so perché, probabilmente che bisogna sempre dare una sanzione anche a un altro giocatore. Se fosse stato visto sarebbe stato espulso, questo non c'è dubbio, cioè, probabilmente non l'ha visto, ma credo che siccome il giocatore è stato comunque sanzionato, credo che può non essere sia stato ammonito per simulazione, perché in effetti lui è stato preso per la maglietta, sì, è stato da dietro. Ammonito sicuramente per simulazione. Se non è stato ammonito per l'acqua e l'acqua per simulazione, credo, però anche per la provocazione, eh. Io non so se l'arbitro ha visto le goccioline d'acqua, però insomma secondo me l'ammonizione appunto per quelle due cose lì, per aver comunque provocato questa roba qui e poi per aver accentuato la... Fosse questo, è inspiegabile come è stato espulso Cataldi e non Strootman, perché evidentemente ha visto la spinta di Cataldi. Probabilmente ha visto solo la simulazione, forse non ha visto l'acqua tirata in faccia dove era, perché una cosa del genere sicuramente ti cacciano, certo, almeno credo. Certo. Massimo, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno a voi. Dica. Allora, io sono laziale e vorrei dire solo tre cose velocissimamente. Primo, d'accordo con Cruciani che noi siamo rassegnati alla sconfitta. E dunque ogni tanto la vittoria è più bella per questo. Esatto, essere laziali è una scelta non banale. Vabbè dai, questa non è una scelta, tiene così. No, non è che... ha ragione. Cioè. Comunque, al limite possiamo rompere le uova nel paniere, però noi abbiamo vinto un derby e un trofeo con quel derby che ne vale almeno 10. Una goduria che non credo i romanisti abbiano mai potuto questo però dopo tanti anni non conta, dai, cioè, conta meno. Poi? Io credo però che la squadra della Lazio scende in campo con una sorta di ansia da prestazione ormai nel derby. Questo può accadere quando ci sono delle lunghe serie negative. Devono lavorare su questo, devono scendere in campo come se fosse una finale di qualcosa, dare il massimo e non guardare. Ma io credo che non ci sia nessuna squadra, Pier, credo non ci sia nessuna squadra che scende in campo e non dà il massimo. Non è questo, credo che ci sia un blocco psicologico. È anche vero, anche se poi i giocatori cambiano, non credo che Immobile abbia un blocco psicologico, perché è il primo derby che giocava in vita sua di Roma, come altri giocatori, lo stesso Wallace. Che non credo che ci sia il blocco psicologico. Qualcuno può averlo, chi ha perso gli ultimi 3-4 derby negli ultimi anni, può darsi pure che abbia questo blocco. La differenza tra una squadra appunto più matura, abituata, e una squadra invece più giovane. Probabilmente c'era anche un effetto di euforia. Allo stadio c'era una bellissima atmosfera, c'è stata questa cosa di questi sbandieratori, di questi ragazzi della Lazio che sono entrati. C'era un clima, ripeto, abbastanza asimmetrico, cioè si giocava veramente in casa della Lazio. I primi 20 minuti la Lazio ha giocato meglio. Dopodiché poi ha finito di giocare a pallone, non abbiamo più fatto un tiro in porta. Dai, fammi salutare il presidente di una squadra a cui Cruciani tiene molto. Che presidente è? Del Pescara. Beh sì, sei grande Sebastiani, sì, grandissimo. Daniele Sebastiani, squadra a cui io spero, è la mia seconda squadra, perché vive la mia famiglia a Pescara, spero che il Pescara si salvi e credo che abbia tutte le possibilità di salvarsi, perché comunque è una squadra che gioca a pallone. Qualche volta il fatto che si giochi a pallone in Serie A penalizza. Perché prende dei gol, però io stimo moltissimo Oddo, ma Sebastiano lo sa e spero davvero che si salvi senza far torto a nessun'altra squadra. Buongiorno Presidente, che dice? Buongiorno a voi, ma non posso che essere d'accordo, perché Pescara ha una sola strada per cercare di salvarsi, quella di continuare a giocare a calcio. Poi, come dicevate, purtroppo il calcio, giocare a calcio non sempre paga. Sì, bisogna trovare qualcuno che la metta dentro. Però, ma la troviamo. Purtroppo abbiamo avuto un problema con l'attaccante che abbiamo preso e che sicuramente avrebbe dato, se non avesse avuto problemi di infortunio, avrebbe sicuramente risposto alle nostre aspettative. Però adesso ci sono tre partite fino alla sosta importantissime, perché sono quelle più difficili a mio avviso, e dobbiamo rimanere concentrati e dare grande forza a questo gruppo, che secondo me non ha nulla da invidiare ad altre squadre che devono lottare per salvarsi. Poi soprattutto c'è un altro elemento, no Pier, che è questo, cioè il Pescara, nonostante una serie di sconfitte anche pesanti, no, cioè ha tenuto l'allenatore, Pier, questo mi sembra anzi è sempre stato difeso dal presidente, questa è una medaglia, cioè chi si vuole salvare ed è il Pescara, se cambia l'allenatore che l'ha portato in Serie A, che ha un legame con la città, poi per carità tutto può succedere nel calcio come sappiamo eccetera, che se cambia l'allenatore è una follia. Siccome Sebastiani folle non penso. Però io non è che non ho cambiato l'allenatore perché hai legame con la città. Sono convinto che è molto bravo, che sta lavorando bene, che ha la squadra dalla sua parte, e quindi siccome poi io essendo di Pescara e vivendo molto da vicino la squadra, queste cose poi le avverto, non ha senso cambiare allenatore quando hai la certezza che ci sono i parametri principali per poter andare avanti. È chiaro che se vedi che tutto questo manca e devi intervenire, però non è così con noi e quindi Oddo per me ha la massima fiducia tra altre certo. cose. Gliel'ho data in tempi non sospetti, sì, la fiducia. Certo, sì, sì, certo Pierre, se uno vedeva la partita della prima giornata, no? Cioè che Pescara-Napoli, non pensava che il campionato del Pescara potesse essere così difficoltoso. Questo è vero. Però a me sembra che ci siano mai come quest'anno quattro squadre in difficoltà e si giocheranno un posto. Questo volo chiedere anche al presidente. Cioè Crotone, Empoli, Palermo e Pescara. Io con quota salvezza molto bassa. Che Udinese, Bologna, Sassuolo, la Sampdoria adesso ha fatto un bello scatto in avanti, cioè che queste squadre qui possano essere in qualche modo invischiate in quella parte bassa. Mi sembra che ci siano quattro squadre inferiori, devo dire nettamente inferiori, e credo che la partita sia fra quelle quattro, ed è una partita che il Pescara ovviamente si può giocare con il 25% di possibilità, cioè, perché fra quattro mi sembra quota salvezza, non so che ne pensa il presidente. Beh, aspetta, glielo chiediamo dopo il traffico. Okay. Tutti convocati. Con Sebastiani, presidente del Pescara, eravamo rimasti alla domanda di Pardo. Crede che insomma siano queste quattro le squadre che lotteranno per la salvezza? Tra l'altro, quota salvezza estremamente bassa, ci salverebbe con 21 punti, grosso modo. Vabbè, adesso poi bisognerà vederla finita questa cosa. Però io dico che bisognerebbe fare anche un discorso un po' più ampio su questo aspetto qui, perché forse se non ci si siede a un tavolo e si cerca di ripartire le risorse in maniera più equa, il campione italiano perderà sempre di più di interesse, perché non è pensabile che ci siano società che fanno la guerra con le fionde e gli altri che arrivano col carro armato. Cioè dovete avere più soldi, dice il presidente? Ma cioè le squadre piccole, già se ne parla? Ma sicuramente sì, perché si parla non è anche di riforma dei campionati a 18. Ma è giusto fare delle riforme importanti, perché sennò si va avanti sempre con il prodotto calcio in Italia. Non è che si venda meno di altri paesi perché siamo meno bravi o più scarsi. Non si vende meno perché probabilmente bisogna alzare la qualità, bisogna alzare la qualità della competizione, perché se la prima c'ha 36 punti e l'ultima ce n'ha 6, qualche problema evidentemente c'è. Sì, e sì. Quindi bisogna lavorare anche in quella direzione. C'è un contratto televisivo molto, molto pesante, come ci ha raccontato molte volte Pardo, che mi sembra sia secondo in Europa dal punto di vista dei denari. Presidente, vuole dire, mentre in Inghilterra c'è il Bournemouth che rimonta con Liverpool, c'è una distanza tra la seconda, tra la terza del campionato e l'ultima, la penultima, che non è così larga come in Italia. In Italia in Inghilterra c'è il Leicester che vince il campionato, in Italia questa cosa, il Verona dei tempi che vince il campionato, non succederà più. Presidente, ha ragione, questo riguarda i criteri di ripartizione dei diritti televisivi. Sappiamo che l'Italia si colloca a metà strada fra il modello spagnolo, dove ci sono Barcellona e Real che hanno una distanza ancora più netta, e il modello inglese, che è il modello sicuramente più virtuoso per quelli come me che pensano che poi l'equilibrio sia un valore per un campionato. Crociani, che è un appassionato di sport americani, sa benissimo che negli sport americani c'è il draft, che è un meccanismo che tende a riequilibrare le distanze fra le grandi e le piccole. C'è il salary cap, che è un altro strumento per riuscire insomma a mantenere l'equilibrio. Questo nella cultura del calcio europeo non c'è da nessuna parte. Poi ci sono modelli come quello inglese, dove la ripartizione è un po' più equa, è un po' più equilibrata, e modelli come quello spagnolo, dove invece c'è molta più sperequazione. In Italia è in mezzo, io sono d'accordo con il presidente, fra l'altro io credo, poi questo io tema più per Benignazzo, che il prossimo contratto sia abbastanza complicato, perché chiaramente c'è la possibilità che ci sia meno concorrenza di quella che c'era prima, da quello che leggiamo in questi giorni sui giornali. Quindi questo è un tema che riguarda la cifra. Per quello che dicevo, scusate, per quello che dicevo che bisogna alzare la qualità, perché io penso che alzando la qualità ci sarà anche più concorrenza per acquistare i diritti, e chi deve prendere più soldi li prenderà ugualmente. Invece se abbassi la qualità e magari trovi un solo interlocutore, poi il mercato questo è chiaro, questo è chiaro. Sono le leggi del mercato. Poi in Inghilterra hanno tutti un sacco di soldi, perché i diritti del del calcio inglese all'estero, nel mondo, sono, sono quotate. Basta discorsi seri, facciamo due domande al presidente Pierre, sulla Padula? No. Innanzitutto, è contento dei gol della Padula nel Milan? Prima cosa, sono felicissimo perché prima di tutto perché il ragazzo se lo merita. Poi sono felice perché sono contento anche per Gagliani e per il dottor Berlusconi, perché forse avevano preso qualche critica di troppo nelle prime partite, perché d'altronde il ragazzo non aveva giocato. Forse il Napoli, presidente, lei che sa cosa è accaduto in quelle settimane, quest'estate, e dopo l'infortunio di Bilic si deve un po' mangiare le mani. No, il Napoli, devo dire la verità, il Napoli non si deve mangiare nulla, cioè quella è stata una scelta del giocatore, e quindi il Napoli, se dipendeva da De Laurentiis e Giuntoli, l'avrebbero preso molto prima. Però sai, quando c'è il giocatore che comunque vuole attendere, vuole scegliere, vuole decidere dove andare, ci puoi fare poco. Senta, un problema. A lei chi piacerebbe vincere lo scudetto? Mi sia sincero su questo, cioè le piacerebbe una squadra in particolare o no? Cioè... Ma a me sinceramente, posso dire la verità, proprio per la bellezza del campionato e per dare importanza al campionato, premesso che io sono un simpatizzante juventino, mi piacerebbe che la vincesse un'altra squadra. Cioè che non lo vincesse la Juve. Diventa troppo monotona il campionato italiano, perché se no vuol dire che gli altri stanno sempre lì a giocarsi la seconda posizione. Cioè le piacerebbe che non vincesse la Juve, sì. No, mi piacerebbe magari vincesse una piazza come Napoli, una piazza ma anche come Roma. Cioè, e che se si salva, che fa lei? Io se mi salvo penso di aver fatto il mio dovere. No, ma che fa? Faccia un gesto. Non dico che si deve spogliare come la Ferilli all'epoca, ma che ne so. Cioè... Ma io se mi spoglio io ci vivo solo. No, appunto, non dico che deve fare quello, perché non sarebbe, non sarebbe un bello spettacolo. Scusi. Faccio spogliare qualche bella ragazza di Pescara. va bene così. Grazie presidente, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Giuseppe. Ciao ragazzi. Ciao stasera. Pardo, sì. Sentiamo domani. Sì, stasera c'è la Padula, glielo chiediamo se è stato veramente lui che ha voluto il Milan più del Napoli. E poi c'è il signor Cruciani. C'è il signor Cruciani che è carico, a pallettoni, come hai sentito. Trionfo. Ciao ragazzi. A dopo il GR. Tutti convocati. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago, dolci emozioni italiane. Tutti convocati. Sto riguardando per puro caso la gazzarra di ieri nel derby e sto rileggendo la frase incriminata di Lulic. Tutto questo per puro caso, ma anche perché è onestamente l'argomento di giornata. Tiziano, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Io volevo intervenire, sono di Parma, intervenire prima. Io ho d'accordo con Cruciani sul fatto che comunque la frase che ha detto Lulic è una frase bellissima. Quella di Rudiger è la stessa cosa, ma non so chi è la Lazio, ma sta zitto te che vendevi dei calzini, capito la battuta? Io credo che non sia per me la cosa peggiore è lo sputo di Stoppan alla panchina della Lazio. Bella gara, no? Secondo me la peggiore rimane una frase di Rudiger, perché Rudiger può anche dire provocatoriamente non so chi sia la Lazio, impossibile non lo sappia, dato che è lì da due anni e vive la città e basta uscire per respirare l'aria del derby. Questa è una provocazione che secondo me ci può anche al limite stare. La frase di Lulic secondo me invece no. Non sta né in cielo né in terra, secondo me. E rimango convinto che uno sfondo di insulto razziale comunque esista. Poi mettiamola come vogliamo, tocchiamogli il portafoglio, cui i giocatori sono particolarmente sensibili, come si fa in America, deciderà il giudice sportivo se squalificarlo oppure no. Però è una frase che, nonostante le scuse che arriveranno e che a me fanno ridere, anzi mi rendono molto triste, perché le parole scritte a posteriori, mi dispiace molto, caro mio, ti voglio bene, eccetera eccetera, secondo me sono qualche cosa di che si potrebbe addirittura forse evitare. Grazie Tiziano. Rimaniamo che il Milan è la squadra più forte del campionato. No, non è la squadra più forte del campionato, è una di quelle che giocano meglio, però è una squadra molto ben allenata da Montella, che si preoccupa più di tanto a questo punto, forse anche perché non ne vale la pena, dei soliti diktat presidenziali, cioè presidiamo l'altra metà campo e vinciamo attraverso un bel gioco. Il Milan vince con una combinazione di intelligenza, furbizia, abilità e anche fortuna. Aziz, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io vorrei intervenire sulle parole di Luli. Sì. E vorrei dire a tutti i romanisti, quelli che chiedono la squalifica a Luli, hanno dimenticato quello che ha detto di Rossi a Mandzukic quando ha giocato Juve-Roma? Per me quelle lì erano più razzisti che quello che ha detto Luli. Non lo so se ho spiegato bene. Se De Rossi non ha preso neanche una giornata di squalifica, non lo so, come non penso che Luli viene squalificato. E io sono juventino, non sono né laziale né romanista. Vorrei chiederle un'altra cosa sulla Juve. Sì, dica. Ma Allegri, va bene che non è che dico che non è un grande allenatore, ma a giocare con Hernanes abbiamo perso tutte le partite e nonostante continua a usarlo sempre. Vorrei sapere il suo parere. No, io credo che la Juventus sia meritatamente in testa alla classifica. Credo che, come si diceva l'altro giorno, abbia enormi margini di miglioramento. Ora rientrerà Dybala, Allegri parla della possibilità di un esperimento con i tre attaccanti Dybala più i due attuali. Io non ci credo molto, ma anche perché non credo che Higuain abbia voglia legittimamente di sacrificarsi per il resto della stagione nel fare la spalla a un Mandzukic che sta giocando comunque a livelli altissimi, quindi non credo a questo tipo di esperimento. Rimango, ripeto, del parere che la Juventus, ma parlano i numeri, è l'unica squadra in Europa in testa alla sua classifica del suo campionato e alla classifica del suo girone di Champions League. Poi giochi bene, giochi male, alla fine si guarda dal tabellone e, ripeto, i margini di miglioramento sono grandissimi. Diamo un'occhiata a quello che è successo all'estero prima di andare sul tema Inter. Pone Neymar, e via all'interno dell'area, gol! Con el croata, balón con Rossi, punto de penalti, Ramos, gol del Real Madrid sobre la bocina, gol de Sergio Ramos, salva el empate el Real Madrid del 89, marca Ramos, Fútbol Club Barcelona 1, Real Madrid 1. Here comes William, he's in behind City now, and he scores, with real authority, 2-1, what a second half from them. Goes across and then Hazard speeds past him. Mr. Rapid. The classic counter-attack. And for Chelsea, what a statement here in the second half in Manchester. Parte con il destro, deviazione dalla propria porta di Kolasinac e l'Ipsia ritrova il vantaggio. Diciamo che i minuti iniziali della partita, del primo e del secondo tempo, sono stati disastrosi. Ancora Plea, il rutto buono, Sarri, e voilà, sono 3-0, non si ferma più, il Nizza di Favre. Allora, rapido riassunto di quello che abbiamo vissuto in questo intensissimo fine settimana, non solo sul fronte italiano, con l'1-1 tra Barcellona e Real Madrid, che in qualche modo condanna i Blaugrana, che hanno una notevole distanza ora dalla, cioè l'avevamo anche prima, è rimasta invariata, una notevole distanza dalla, dal Real Madrid. C'è Conte sempre più primo, e c'è anche un ascoltatore che sottolineava anche come anche in Inghilterra il divario tra la prima e l'ultima sia abbastanza accentuato. Chelsea 34 punti, Swansea 9. C'è il Lipsia, i bibitari del Lipsia, come direbbe il mio amico Leo Turrini, sempre in testa al campionato tedesco, e così il Nizza, che è di Balotelli, nonostante in questo momento sia fuori, fuori dai giochi per infortunio. Tancredi Palmieri, inviato di Bein Sport, ciao. Buenas tarde, buenas tarde. Good afternoon, buongiorno. Buongiorno. Senti, Barcellona che doveva vincere assolutamente questa partita, non ci è riuscito, per il solito Sergio Ramos, che non è nuovo, non è nuovo a far male al, ai rivali. È pazzesco, a Sergio Ramos gli piace fare l'amore solo in questa posizione, alla fine praticamente, solo così. Però guarda, entrava con 6 punti di vantaggio il Real Madrid nel classico, è l'ultima volta che era riuscito ad entrare nel primo classico della stagione con questo vantaggio, è stata anche l'ultima volta che ha vinto il campionato, e non è un caso, nel 2012 quella volta perse, e comunque sì, il vantaggio però era tale da neutralizzare la sconfitta nel classico. Stavolta addirittura non riesce a perdere, poi lo fa in questa è la maniera che frustra di più gli avversari, perché gli toglie la capacità di reazione, e non è un Barcellona comunque brillante, è un Barcellona che oltre a quei tre davanti e dietro non riusciva quantomeno ad avere uno sviluppo di gioco dovuto soprattutto all'assenza di Iniesta, che era e sarà ancora per un po' l'alfa e omega del gioco del Barcellona. Certamente. Senti, da quella squadra sono usciti due grandi allenatori, uno che si sta consacrando, vabbè, ha alzato la Champions League, primo nella Liga, forse si è già in parte consacrato, ed è Zidane. L'altro è in testa alla Premier League e a è riuscito in tempi che secondo me sono stati rapidissimi a contizzare il Chelsea, Antonio Conte. Guarda, spettacolare anche contizzato il City e Guardiola, ci è riuscito con una rimonta, ragazzi, ha rimontato in casa una squadra di Guardiola nel secondo tempo da 1-0 a 1-3. Io mi sono andato a riprendere tutte le statistiche, in tutta la sua storia Guardiola ha perso 11 partite di campionato, 11 partite in casa, non solo di campionato, tutte le competizioni comprese. Peggio di questo è andata solo con il Bayern Monaco, lo storico 0-4 contro il Real Madrid di Ancelotti, e lo 1-0-3 di campionato contro il Dortmund di Klopp. Però se tu guardi le forze in campo, il Chelsea è una rosa adattata alle esigenze di Conte. Bisogna ricordare che a Conte gli hanno appioppato David Luiz, e lì dove lui era abituato a Barzagli, Bonucci e Chiellini, che quando aveva non gli funzionava l'allarme in casa gli diceva venitemi a guardare casa, perché sapeva che spaventavano tutti, ci ha dovuto mettere David Luiz, che gli passano anche attraverso i capelli gli attaccanti, l'ha trasformato quasi in un difensore solido contro una squadra che fa gioco come quella di Guardiola, fino al punto che nel secondo tempo non ha soltanto segnato in contrattacco, non ha soltanto vinto 3-1 in rimontata, ma l'ha fatto per larghi tratti conducendo il gioco, cioè costruendo il City a togliergli il pallone. È la maniera devastante in cui Diego Costa ha travolto tutta la difesa del City. Certo, stravolgere Otamendi non è nemmeno impresa impossibile. Ha citato due giocatori che la cui quotazione sommata fa un centinaio, Sì, che è assurda come cosa. Otamendi, Carlo, ma che abbiamo fatto David della Lewis. Nostra vita? Ma perché non ci siamo allenati anziché andare? No, ma perché non abbiamo trovato neanche un presidente che desse così tanti soldi, un procuratore. No, però è stata anche la grande sconfitta di Guardiola. Mentre Conte è riuscito a contizzare il Chelsea in tempi molto rapidi, mi sembra che Guardiola sia pericolosamente in ritardo con i lavori. Guarda, è evidente che c'è qualcosa che va a livello profondo, perché se dal punto di vista del gioco comunque sia il City di Pellegrini l'anno scorso non è nemmeno parente del gioco che esprime il City, però a livello di punti siamo là, in Champions è riuscita a riagguantare il secondo posto, non il primo, soltanto perché il Barcellona era già primo quando è andato a Manchester e vinceva nel primo tempo e io là si è completamente rilassato nel secondo. Però è evidente che lo stesso, qua sta la straordinarietà di Conte, è evidente che lo stesso Guardiola ha dovuto adattare una rosa che non è sua, non sente sua, non gli appartiene, a quello che è un suo credo totalmente diverso. Però Conte ci è riuscito, ma con questa straordinarietà di prestazione. Il City ci è riuscito nel cambio di filosofia, perché comunque sia, ripeto, non sembrano la stessa squadra paragonato l'anno scorso e quest'anno, però è evidente che ci sono dei vorrei ma non posso sparsi nell'11 che va in campo del City, e come la gira, come la giusta, la cosa non cambia comunque. Senti, i bibitari dell'Ipsia quanto durano? Secondo me durano. Allora, guarda, io li amo da morire. Numero uno perché fanno incazzare tutti. Perché arrivano là tutta la Germania che gli si rivolta e dice no, chi sono questi parvenu? Anche perché sì, bisogna ricordare, in Germania c'è la legge che la proprietà di una squadra di calcio deve essere per il 50% più uno in mano a tedeschi. Okay. Loro l'hanno fatto comunque sia con un escamotage, anche se sono appunto i bibitari. Si chiamano, ricordiamo, RB Lipsia, vabbè lo possiamo dire, starebbe per Red Bull, ma siccome non si può mettere il nome di un'impresa straniera, che è assurdo perché c'è il Bayer Leverkusen, ma vabbè, allora sì, l'hanno chiamato, se non sbaglio, Risenball, che vuol dire palla campo, se non ricordo male, quindi figurati, già questo è un trollaggio a livelli stratosferici. Ma sì, poi partono dal presupposto, dicono ah sì, perché buttano i soldi e vincono solo così. Allora, a parte che non mi sembra che il Monaco vinca pro bono, numero uno, ed è la squadra di uno dei più grandi fornitori tecnici sportivi al mondo. Certo. Ma numero due, questa è gente che è arrivata con quello che dovremmo vedere in Italia, che dovremmo fare in Italia, diciamo, hanno dietro la Red Bull. No, l'hanno fatto con progettazione. Prima hanno scelto il luogo geografico dove andare, hanno scelto Lipsia perché non c'era una carenza di football di alto livello, non hanno preso la Lokomotiv Lipsia perché si erano rivoltati i tifosi, hanno scelto questa squadra, l'hanno presa dall'ultimo, dalla quarta o la quinta serie, e hanno fatto un progetto che di anno in anno era conforme alla categoria, quindi non buttando i soldi, per intenderci, tipo quando la Fiorentina fu retrocessa in C2 come Florenzia Viola, comprò giocatori di categoria di Serie B ed era ovvio che sarebbe stata subito promossa. No, un progetto basato sui giovani, i migliori giovani di categoria, e progressivamente fino alla Serie A. Pensa che il deus ex machina del progetto Leeds, che è Ralf Rangnick, che è una sorta di, per intenderci, Jürgen Klopp versione più manageriale, una sorta di Alex Ferguson tedesco, bene, ha un, tra l'altro con una storia tutta particolare, perché per un certo tempo aveva mollato il calcio perché aveva avuto una crisi personale. Beh, è talmente, la sua idea di calcio è talmente to cure completa, che tu pensa, l'Inghilterra la scorsa estate, quando aveva preso Allardyce, che poi insomma è stato allontanato per i fatti noti, ma aveva contattato Rangnick per dargli la nazionale inglese. Tu immaginati un uomo che posta quasi la federazione inglese sul punto di affidare la nazionale a un tedesco, che non lo so, altro che il sia referendum, è roba proprio, cambi epocali. Questo è lì, e secondo me, allora, non so se può reggere fino a vincere il campionato, no, perché il Bayern comunque è valore assoluto. Non lo credo, sarebbe veramente, insomma, a parte il fatto che il leisterismo va di moda, no? Perché c'è Lipsia e Nizza anche, di cui abbiamo sentito una copertina. C'è pure il Nizza, che chi avrebbe dato, avrebbe messo un ramino, inteso come 1, 5 o 10 centesimi sul Nizza primo a quest'ora. Prima di andare a Nizza, a Monaco, come dice Ancelotti, preferiscono la Coppa, perché tanto di campionati ne hanno vinti a sufficienza con Guardiola. A marzo comincia la fase pregna della Coppa, che toglierà energia al Bayern, e comunque sì, Ancelotti in tutta la sua straordinaria carriera, ricordiamo, ha vinto lo stesso numero di Champions e di campionati, solo tre campionati in quasi 20 anni di carriera. Io per non cui... so se quest'anno riesce nell'impresa di perderlo, posso dirti. Non so, non sono, vero, così, non sono così convinto. Però il Nizza, guarda, è un miracolone forse. Il Nizza è veramente paragonabile all'Leicester, perché ovvio la situazione tra Paris Saint-Germain e gli altri non ha confronto. Però c'è anche, comunque sia, ci sono squadre di tradizione come per esempio il Lione, che non hanno una rosa a quell'altezza, ma comunque sì hanno una progressione continua. C'è il Monaco, che è una, forse la squadra che gioca meglio in Francia e con un 3-4 valori assoluti. Il Nizza è veramente tirato fuori dal mazzo come il Leicester lo era l'anno scorso. Sì, cioè, sì. È totalmente proprio. Sì, sì. Grazie Tancredi, un abbraccio. Grazie, grazie a voi. Grazie. Bella chiacchierata di calcio, estero. Che ripeto, in questa settimana ci ha riservato non poche grandi partite. Claudio da Udine, poi vi faccio sentire la top 3 delle dichiarazioni settimanali. Buongiorno Claudio. Buongiorno a tutti voi. Volevo intervenire un attimino su questo discorso del Chelsea. Io ho visto tutta un'altra partita, so che chi vince ha sempre ragione, ma ho visto un grande City. Io il City l'ho vedo da tanti anni e ha sempre giocato male, invece vedo un grande City giocare benissimo, ha stradominato la partita e sul 1-1 ha sbagliato un gol a porta vuota praticamente, con il miglior giocatore che ha, cosa incredibile, e da lì poi ha perso con due contropiedi, con un gol, con un lancio da 60 metri che neanche terza categoria si prende gol così. Ha preso la lì, c'è da dire qualcosa chiaramente sulla Conte, difesa, però. Conte sui lanci da 60 metri è ben disposto, eh? Cioè non creda che sia tanto casuale il modo in cui il Chelsea ha battuto il City, perché però se l'è fatto rimbalzare addosso veramente, complimenti a Cala Guardiola. Però ripeto, un grande City che ha perso in casa in rimonto una partita determinante, quindi molti meriti secondo me a Conte e al Chelsea. Poi è una squadra alla Conte, non vedremo mai le parti invertite, cioè non vedremo mai il Chelsea giocare come ha fatto il City sabato, però resta il fatto che vincere in casa del Manchester City in quella maniera è una roba da grande squadra. Questo è il mio pensiero. Allora, per chiudere vi faccio sentire la top 3 delle dichiarazioni della settimana, a cominciare da Spalletti su Emerson. Stasera Emerson, una grandissima partita. Vedremo se oggi i rompicoglioni di sempre continuano. No, è così. A Emerson l'hanno tritato. Dalla mattina alla sera l'hanno tritato. Vediamo se anche oggi si continua a insistere su Emerson e non si lascia tranquillo di giocare una partita. È così Spalletti su in difesa del suo Emerson. Inzaghi su ciò che è mancato alla Lazio. Che determinate partite a volte, come ho detto prima, ci vuole un pochettino di ignoranza, di cattiveria in più, perché tu non puoi permetterti di regalare palloni, di tentare tunnel, di tentare tacchi e rientrare in partite del genere. Non te lo puoi permettere, perché ti va bene una volta, due, poi la terza ti va male e prendi gol. E infine Mihajlovic, che ha già diretto la prua verso il derby di Torino. Sampdoria è stata brava, ha vinto e basta, si pensa alla prossima partita. Ci abbiamo un'altra amichevole, vediamo di prepararla bene e di fare e giocare per vincere come abbiamo fatto sempre fino ad oggi. Molto bene, Alessandro da Roma a chiudere. Buongiorno, dica. Buongiorno Andrea, no Alessandro. Andrea, mi scusi, ma ha scritto Alessandro. Prego. Io leggo quello che mi scrivo sul monitor. Dica. Guardi, relativamente all'Udice, al derby di ieri, Roma, sicuramente sono censurabilissime le frasi di Rudic, ma contestualizziamole. Sono dette da un ragazzo che di professione fa il calciatore, non l'opinionista, nella transagonistica del post derby. Sulla transagonistica, quasi, Alessandro, avrei da discutere. Sì, no, concluda, però l'ho già detto prima, le ha dette in giacca e cravatta dopo la partita, non in campo. Dica. Come De Rossi, peraltro, ma molto più gravi, guardi, molto più gravi sono le parole dette dopo un'ora da un'intervistatrice che continuava a stuzzicarlo su questo punto, e la frase assurda dell'intervistatrice è stata che la frase era razzista, soprattutto se detta da un bosniaco. L'intervista ti dice, disse una cosa di questo tipo, e questa è la cosa ancora più grave, perché se è grave che detta da un calciatore, no, attenzione, è molto più grave. L'ho intesa da in questo senso, è stata un'espressione infelice pure quella, però l'ho intesa in questo senso, da un comunque uno che ha subito il razzismo, da uno che ha subito una storia difficile come quella degli ultimi anni dell'ex Jugoslavia. L'ho intesa in questo senso, non l'ho inteso come tu bosniaco non puoi dire una roba del genere. Vabbè, tanto so già che torneremo a parlarne. Ringrazio Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Alviso Falzone in redazione. A domani.